ma come sono bravo come mi diletto, Adamola come nel letto non si può avere rispetto, quindi automento e foto, quella con tua nonna menta stende la lasagna, voglio fare soldi e la vita di un gangster, dire con Nicole ma anche una testa di cazzo, fare l'infiltrato in una banda di gangster, fai poi break poi match poi scusa, anticipare Messi in aria di rigore, chiamare Marcoschi e offrirgli da bere, fare serata come Pablo Escobar, guidare la Verona mentre parli gara, della pubblicità che ti sto mostrando, mille stronzate che ti sto raccontando, se è quello che vuoi te lo do finché non vieni a combattere. Voglio sfidare Bobby Fischer a giocare a scacchi, cercare di capire perché l'uomo porta i tacchi, vuole restare in bilico su un filo di lana, il giro di cugina piedi nudi per strada, sicuro di me stesso, di quello che calpesto, che fosse essere un chiodo o una merda di cavallo, voglio chiamargli Ole per sfidarlo nel ballo, lasciamo stare, vado a casa di Gianna Michael. E voglio di quando mi fai ascoltare un demo, non mi parlare di cose che già vivo che conosco, con la differenza che tu le messe arriva non essendo l'esigenza, parlami di qualcosa che non so, che non ho mai sentito, sorprendimi, devo riflettere su ciò che dici, lasciami un segno, potrei vivere ancora per qualche secondo, è l'ultima cosa che sento, non può essere un lamento, ma tu non ascoltami, ascoltami, ne ho già male di sentir parlare di alcol, fregna, fumo e gangbang, fregna, fumo e gangbang, quando devi confessarti me in chiesa, al bar dove cazzo vuoi, ma lascia perdere la musica. Seguimi, ti porterò in dei posti di cui ignorare l'esistenza, perché il tuo essere vive nell'ignoranza.